Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È l'evento sportivo più atteso dai pubblicitari di tutto il mondo. Parliamo del Super Bowl e degli spot che quest'anno hanno lasciato il segno. È uno degli strumenti principe per capire come cambiano i consumi, come ogni anno il paniere dell'Istat fotografa le nuove abitudini di spesa degli italiani. Mai come quest'anno l'emergenza smog richiama tutti alla consapevolezza. Nel focus sui trend parliamo di app, device e innovazioni anti-inquinamento. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Un evento nell'evento, lo spettacolo dell'intervallo della finale del Super Bowl, l'evento televisivo più atteso e seguito dell'anno. Shakira e Jennifer Lopez, le sentite in sottofondo, le protagoniste di quest'anno all'Hard Rock Stadium di Miami. Ma c'è un terzo elemento per cui la partita conclusiva del campionato NFL fa notizia. Gli spot rappresentano ogni anno il meglio della produzione pubblicitaria mondiale. Il Super Bowl è l'occasione in cui tutti i grandi brand si sfidano a colpi di spot. Li trovate tutti nel link sulla nostra pagina Facebook. 30 secondi che arrivano a costare, pensate, 5,6 milioni di dollari. Questo il dato di quest'anno. Un contesto perfetto per chi si occupa di consumi, di comunicazione, di marketing, per individuare immagini, stili, personaggi e tendenze destinate a lasciare il segno. In questa edizione ci sono stati molti richiami al cinema, su tutti Il giorno della marmotta per Jeep con Bill Murray, e poi c'è stata molta leggerezza, poca politica, se non negli spot elettorali ufficiali per le presidenziali di Donald Trump e Michael Bloomberg. E sono scesi in campo i colossi del web come Facebook, primo spot in assoluto, e Google, in crisi di credibilità forse. Ne abbiamo parlato con Vicky G, tra i più noti creativi italiani, presidente dell'Art Directors Club italiano. C'è una grande macro tendenza al ritorno a un approccio più comedy, quindi con un contenuto di intrattenimento molto alto, molta ironia, tutte logiche che negli ultimi anni avevano lasciato più il passo ad approcci più legati a brand che sposavano cause sociali. Quest'anno il vero dato importante che si evidenzia è il ritorno alla comedy, ad approcci un po' più ironici, da un lato. Dall'altra parte c'è sempre un grandissimo uso di testimonial, con più o meno link con quelli che sono i brand. Quando è di più è più forte, quando invece il testimonial viene utilizzato semplicemente per la notorietà che ha è un po' meno interessante. Un altro dato, approcci molto meno globali ma molto più legati alla cultura del paese, cioè diciamo che i target che abbiamo visto rappresentati, forse anche spinti dai trend che si raccontavano i valori, erano molto legati a una cultura proprio americana, per cui c'è un ritorno anche a tirar fuori tematiche e approcci molto vicini al mercato in cui ti stai confrontando. Queste sono le macro tematiche che ho visto venire fuori dal Super Bowl di quest'anno. Il tuo preferito qual è? Ma io ho trovato molto bello e estremamente toccante, seppur l'unico dei spot del Super Bowl che avesse un approccio così, quello, il film di Google. È una campagna che racconta la storia di una coppia di signori i cui ricordi sono archiviati su Google, e l'ho trovato delicato, molto vero, con un racconto che va a toccare corde molto intime. Devo dire, trovo il mix tra il mondo della tecnologia e questo racconto di grande umanità molto forte. Alla fine era il più silente dei commercial del Super Bowl di quest'anno, nel senso che tutti gli altri erano molto chiassosi, divertenti, diciamo ingaggianti da un punto di vista anche visivo, mentre questo si giocava molto sull'equilibrio delle emozioni che raccontavo. Ho trovato estremamente bello, molto semplice da un punto di vista meccanico, molto economico da un punto di vista esecutivo, ma con una grandissima componente emotiva. Parlando e di poi colossi del web, il debutto sì, di Facebook, forse un po' in crisi di credibilità? Ma allora, guarda, Facebook sta vivendo, credo, è sempre un importante asset tra tutte le piattaforme digitali social che ci sono in giro per il mondo. Al contrario di altre che stanno vivendo un momento di exploit legato anche alla novità, Facebook vive un tema di maturità. Probabilmente tra i social network è quello che ha la maturità maggiore, e c'è da più tempo, ha vissuto già le fasi della crescita esponenziale. Ora, come un brand che deve avere la capacità di reinventarsi, probabilmente in una fase in cui deve reinventare il proprio modo di relazionarsi con i propri utenti. È il normale flusso di momenti di una marca. Facebook è nato ed è un social network, ma fondamentalmente è un brand che oggi probabilmente ha bisogno di reinventarsi e riraccontarsi a un'utenza che ha già vissuto fasi precedenti con questa marca. Che cosa rappresentano tuttora per il mondo della pubblicità, del marketing, della comunicazione eventi come questi? Secondo me hanno una duplice valenza. È un po' come ci siamo in pieno il Festival di Sanremo, legato non solo al talento, che in quel caso è un talento sportivo, in questo caso è un talento canoro, ma è un grande momento alla fine di cultura pop. Il Super Bowl in America è esattamente un evento di grande cultura pop, cioè per loro vedere la finale del Super Bowl è come per noi piazzarci con tutta la famiglia davanti alla TV a guardare il Festival di Sanremo. Cioè è un momento da un punto di vista mediatico enorme. La differenza è che in America, dove le leve commerciali sono nettamente più forti e centrali di quanto spesso non lo siano state nel nostro paese, c'è lì anche una componente legata alla presenza dei brand intorno a questo sport. Io credo che sia alla fine un momento che ha nella componente dell'intrattenimento la più grande leva, che poi viaggia su binari diversi. Da un lato l'interesse sportivo, che è sicuramente la leva principale, e dall'altro i brand si tuffano su questo momento di grande attenzionalità dell'opinione pubblica per raccontarsi nel modo più coinvolgente possibile. Più attenti all'ambiente, alla cura personale e più desiderosi di risparmiare tempo. È la fotografia degli italiani scattata dal nuovo paniere Istat. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo anche di prodotti e servizi contro lo smog, dalle app alla pittura. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere. Come ogni anno l'Istat aggiorna il paniere per il calcolo dell'inflazione a rappresentare le nuove abitudini di spesa delle famiglie. Quest'anno le auto elettriche ed ibride, i monopattini elettrici, il sushi takeaway e la consegna di cibo a domicilio, il food delivery. Contrariamente a quanto accade di solito, quest'anno non esce nessun prodotto. Ci spiega tutto Federico Polidoro dell'Istat al microfono di Marco Mancini. Le novità principali riguardano in primo luogo la mobilità sostenibile. Sono entrate le automobili elettriche e le automobili ibride elettriche, quindi con anche alimentazione elettrica, quindi non le ibride in generale. È entrato nel paniere il monopattino elettrico. Tra i servizi di ristorazione, o meglio tra le abitudini alimentari, sono emerse alcune novità importanti di cui abbiamo tenuto conto nel paniere, per cui sono entrate nel paniere la consegna dei pasti a domicilio, il cosiddetto food delivery, e il sushi takeaway, cioè il sushi pronto disponibile o nei corner della grande distribuzione organizzata o in altri punti vendita. Ancora sono entrati nel paniere alcuni prodotti, servizi tipici di un'evoluzione delle abitudini delle famiglie, servizio di barba e baffi e trattamenti estetici per uomo, in particolar modo della popolazione maschile che fa ricorso sempre di più ai trattamenti estetici. Infine sono entrati gli apparecchi acustici, questi tra le novità più rilevanti proprio in termini di nuovi consumi, che indubbiamente sono rivolte a tutta la popolazione che ha problemi di udito, ma sono anche il segnale del progressivo invecchiamento della popolazione, che quindi ha determinato una maggiore rilevanza di questo prodotto. In più, da citare la lavatura e stiratura camicia, anche qua abitudini di vita sempre più frenetiche, tra virgolette, e ricorso a sostegno per i servizi della casa a fornitori di servizi esterni, e infine l'applicazione dello smalto semipermanente, ma qui copriamo meglio già una categoria di consumi presente nel paniere. Come vi muovete nell'aggiornamento del paniere? Su cosa si basano, insomma, le vostre valutazioni? Noi guardiamo sempre ai valori delle vendite, o meglio al peso che hanno questi prodotti nei consumi delle famiglie in termini di valore degli acquisti. Man mano che un prodotto assume rilevanza, e soprattutto oltre alla rilevanza ha anche una prospettiva di stabilità, nel senso che rimarrà presumibilmente per un tempo ragionevole nel paniere delle famiglie, lo inseriamo nel nostro campione di prodotti sulla base del quale stimiamo l'inflazione. Quindi il riferimento è sempre il valore in termini di spesa delle famiglie di ciascun prodotto. Ovviamente questo vale anche per le esclusioni, che quest'anno non ci sono state, perché nessuno di questi prodotti è sceso al di sotto di una soglia che noi riteniamo tale per includere o escludere un prodotto. Focus sui trend. Non solo nelle nostre città l'inquinamento preoccupa, anche nelle nostre case, tanto che cresce il mondo dei prodotti e dei servizi collegati al monitoraggio e al contenimento dei livelli di inquinamento ambientale. Facciamo il punto insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, ben trovato. Buonasera. Partiamo dalle app per misurare la qualità dell'aria, ce ne sono moltissime. Quali hai selezionato, Carlo? Sì, ho selezionato le due più diffuse, che sono Air Visual, che non solo mostra i livelli di IQA, cioè l'indice della qualità dell'aria, ma offre altre funzioni molto interessanti, come consigli per prevenire patologie respiratorie e situazioni di pericolo. Per esempio, se il livello di inquinamento è elevato, l'app suggerisce di indossare una mascherina prima di uscire, ma anche di chiudere le finestre di casa o evitare di fare sport come ciclismo e corsa. È anche possibile fissare il widget sulla schermata principale dello smartphone in modo tale da avere sempre l'informazione sott'occhio. Funziona in tutte le città del mondo ed è quindi molto utile anche per chi viaggia molto spesso. Un'altra app che fa più o meno le stesse cose è Air Quality di Plume Labs. È pensata proprio per quelli che svolgono attività all'aperto, si basa anche questa sulla qualità dell'aria. L'interfaccia è molto intuitiva e permette di sapere quando è meglio uscire in base anche a quale sport attività si fa, per cui in alcuni casi si può uscire per andare in bicicletta, in altri casi casi si può uscire per andare a correre. In abbinamento a questa app, la stessa casa produttrice propone a 160 euro Flow, che è un dispositivo portatile per monitorare l'aria che ci circonda. Infatti le centraline per il controllo dell'aria delle città hanno il difetto di rilevare i dati ambientali di una località standard e non necessariamente questa coincide con il posto dove ci troviamo. Il Flow ha dei microsensori che controllano i maggiori inquinanti, si collega via Bluetooth al cellulare e sul cellulare appunto si vedono i dati relativi. Di solito queste app visualizzano un semaforo che diventa rosso appunto se c'è pericolo, la qualità dell'aria è pessima, verde invece il via libera. È così, Carlo? È proprio così. Ce n'è una che è più curiosa, che si chiama Shoot and Smoke, che invece di utilizzare il semaforo mostra l'equivalente in sigarette fumate dell'aria respirata. Quindi la schermata è semplice e viene subito mostrato il numero di sigarette che corrispondono al periodo scelto, sia questo un giorno, una settimana o un mese. Sicuramente un messaggio efficace. Specifica sull'Italia, ne possiamo citare qualcuna? Sì, io citerei WhatsApp, che è nata a Torino, verifica le condizioni di inquinamento raccogliendo i dati dalle centraline dell'ARPA per avere tutti i valori aggiornati in tempo reale. La particolarità di questa app consiste proprio nella sua capacità di raccogliere in un unico luogo tutti i dati ambientali di varie regioni italiane. In più, WhatsApp fornisce anche l'indice UV, che descrive il livello di radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre. Al crescere del valore, come sappiamo, aumentano i rischi per la salute, specialmente riguardo agli occhi e alla pelle. Dicevamo in apertura che preoccupa anche l'inquinamento indoor. Sì, noi non ci pensiamo, ma in realtà la qualità dell'aria all'interno delle nostre case e dei nostri uffici è spesso 5 o 10 volte peggiore di quella esterna. Le principali fonti di inquinamento all'interno siamo noi stessi, cioè occupanti sia uomini che animali, poi c'è la polvere, ci sono gli arredi, i detersivi, gli impianti che sono condizionatori, umidificatori ed i processi di combustione per la cottura del cibo. Da tempo vengono proposti dei purificatori d'aria che utilizzano diverse tecnologie per renderla più pulita. Alcuni usano dei filtri EPA, ci sono dei filtri con maglie molto strette per catturare le particelle più piccole. Altri usano un processo di ionizzazione che però ha il difetto di produrre ozono. All'ultimo CES di Las Vegas, la società tedesca One Life ha presentato Pure One, che è un purificatore che promette di catturare particelle fino alla dimensione PM1, vale a dire 100 volte più piccolo del diametro di un capello umano. Questo apparecchio utilizza una tecnologia al plasma che sembra essere più efficace nel rimuovere le particelle più piccole e le polveri ultrafini, senza necessità di cambiare i filtri. Il prezzo previsto è tra i 700 e i 1000 euro. In chiusura parliamo di un'innovazione contro lo smog tutta italiana. Di cosa si tratta? Si chiama AirLight, nasce da un'idea di una società italiana che si chiama AM Technology. AM sta per Advanced Materials. Si tratta di una pittura murale che contiene biossido di titanio che è in grado di attivarsi a contatto con la luce, sia naturale che artificiale, e così trasforma gli agenti inquinanti come ossidi di azoto, zolfo, benzene ed altri in molecole di sale. La pittura è quindi in grado di mangiare lo sporco che c'è nell'aria sia all'aperto che all'interno di un edificio, depurandola del 90%. Per capire quanto questa pittura riesca a contrastare lo smog, l'inquinamento, basta pensare che dipingere una superficie di 100 metri quadri con AirLight riduce l'inquinamento dell'aria come se fosse un'area di 100 metri quadri coperta da alberi ed alto fusto. Insomma, lo stesso effetto di un piccolo bosco. Carlo Ricciardi, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, da dove partiamo questa sera? Buonasera Maria Luisa. Partiamo da un concetto che sarà guida nel 2020, l'etica aumentata, l'idea che si debba in qualche modo migliorare prima di tutto se stessi. E qui abbiamo due libri recenti, importanti. Il primo è il libro di Vito Mancuso, che ha proprio come titolo La forza di essere migliori. E la cosa che Mancuso sottolinea è che nella nostra società si è più attenti all'essere i migliori, cioè si cerca di competere contro gli altri, mentre invece nel libro si chiarisce che le virtù corrispondono a un'idea di essere migliori, quindi di migliorare e perfezionare se stessi. Ricordiamo, teologo, filosofo Vito Mancuso, fin dalle prime pagine ci invita a indagare la differenza tra vivere ed esistere, alla ricerca proprio del senso forte dell'esistenza. Sì, vivere purtroppo spesso corrisponde a sopravvivere, mentre invece esistere significa creare, progettare un proprio percorso dove le virtù possono avere una grande importanza. E allora qui ecco che ci aiuta anche un secondo libro, molto diverso, Arthur Lockman, che è un filosofo e carpentiere. Il libro è La lezione del legno, il lavoro manuale e l'etica del fare, che è molto vicina allo spirito che spesso noi ricordiamo, Maria Luisa, e cioè lo spirito dell'imprenditoria italiana, del fare italiano, che spesso viene confuso solo con l'essere pratici. Invece lui dimostra come questo fare sia legato anche a un modo di pensare, no? Quindi filosofia e capacità manuale, ad esempio, di realizzare prodotti straordinari, come l'Italia riesce sempre a fare. Quindi in entrambi i testi un richiamo all'etica del fare, quindi della produzione, ma anche del pensare, quindi del progetto. Eh sì, e qui etica aumentata è secondo noi la chiave del prossimo futuro, perché siamo abituati a parlare di realtà aumentata, no? Quindi il digitale ci ha portato a vivere in un mondo aumentato che però spesso non riusciamo a gestire con valori forti, e allora a una realtà aumentata deve corrispondere anche un'etica aumentata, cioè un modo nuovo di affrontare i valori e il buon vivere. Grazie a Francesco Morace, grazie a Michele Previato in regia. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.